niente di Porsche. Comunque perché no, un giorno potrò, ci metto il forse però. Se non mi yello un po', se non poi sembro un bro. Che sarà oh, che sarà tira bro. Tipo una figa stro, tipo una stronza. Da manicomio tipo rozza. 24, sono i miei flow. Sono in questa song, oh oh oh oh. Swing, swing, swing, swing, swing le parole. Ok, ok. Capisci se swingo le parole. Le palle piene, quello che faccio non ti va mai bene. Guarda che grande sto cazzo che mene. Tanto poi mi fanno un meme. Penso col cazzo perché mi conviene. Aprire un conto alla banca del seme. Swingo parole come la retoria. Dammi nella metà, mi taglio le vene. Ehi, non voglio pensare, bro, versa da pe. Re, ehi, ho perso la fame, ma adesso più se. Te, ehi, vomito tutto il mio odio. Meglio che restare sobrio. Sono l'orgoglio di sto manicomio. Vieni che te la do tutta, lei che si inzuppa, piglia sta zuppa, mentre si trucca, che figlio di pu, ah, dice che sta vita è una meretrice, raddoppio mi so di bro, calcolatrice, rapino si scemi una mitragliatrice, se non ti c'è ancora l'inferno riflesso nell'iride, i soldi non ti fa felice ma ti fa sorridere, fac simile, versa nel mio conto, sono i pan il terribile. Capisci se swingo le parole.